Alors, vivre questo incontro un po' come un'iniziazione, direi. Un'iniziazione che ha cominciato, continuato, questa mattina, quando sono arrivata a Roma Termini e che ho dovuto andare a piedi al mio albergo con la valigia. Dunque, è la prima volta che sono invitato da studiosi italiani che sono piuttosto... C'è un eco nel micro. Vi prego di chiudere il telefono, perché parlo italiano, ma aiutami per parlare italiano. Io penso che il primo gesto di ospitalità è di parlare la lingua dell'altro, è anche il gesto più difficile, perché la lingua è la nostra prima casa e parlare la lingua dell'altro è molto difficile. Ma... E dunque è la prima volta che sono invitata in un posto di studiose che sono piuttosto, se ho capito bene, delle storiche e delle storiche più o meno dell'uguaglianza, sì, più o meno, sì, per il poco che... signora, può chiudere? Grazie. E dunque ho dubitato che cosa faccio, quale discorso, ho saputo che sono dei disputanti e dunque ho deciso di parlare con voi sotto forma di domande. E la mia prima domanda sarà come possiamo condividere il mondo qui, oggi, fra noi. Perché oggi, il più delle volte, parliamo di condividere il mondo, ma non lo condividiamo. Parliamo di qualcuno, non parliamo con qualcuno. Dunque, la mia prima domanda, come possiamo condividere il mondo qui, oggi, fra noi? Perché credo che per condividere con il lontano sia indispensabile poter condividere con il vicino. E oggi si parla molto delle difficoltà di condividere con gli estranei, troppo poco delle difficoltà di condividere con il più vicino a noi, quello o quella di cui dimentichiamo che è differente da noi. Che sia un figlio, che sia un genitore, che sia innanzitutto un compagno, un amico, un cittadino di un altro genere. Confondiamo allora l'abitudine, la consuetudine, in qualche modo, è importante, la familiarità con la condivisione. Restiamo nel familiare. Ma basta che la persona si comporti in modo un po' diverso dalle altre e si trova rigettata dalla società, dalla comunità, perché questiona la familiarità, la consuetudine. E come si dice, nulla è profeta nel suo paese e devo dire che ne so qualcosa. E non so se devo ridere o piangere quando vedo la gente oggi andare a lavorare nei paesi molto lontani per evitare conflitti con le persone che sono vicino a loro. Il lontano non è sempre il più difficile con chi trattare, è un punto che vorrei sottolineare oggi. Ma torno alla mia prima domanda. Perché io, rispetto a voi, sono un'estranea. E questo si dimentica un po' troppo. Certo, ho la pelle bianca e so parlare un po' italiano. La Francia e l'Italia hanno dei pezzi di storia comune. Siamo europei, vicini di frontiere. Ma vorrei... sottolineare qualche differenza e chiedervi come trattarle. voi sottolineo qualche differenza. Voi siete a casa, io no. Voi siete in parte fra conoscenze, più o meno. Io no. Immagino che la maggior parte di voi appartiene alla cultura italiana. Io no. E anche la vostra lingua è italiana. Non è il caso per me. Un altro punto che probabilmente sarà importante oggi. Il mio campo di ricerca è anzitutto la filosofia. E la mia scelta per quanto concerne sia l'evoluzione della condizione femminile, sia il modo di costruire la mondializzazione e di partire dalla differenza. Credo che il vostro dominio di ricerca sia piuttosto la storia, la vostra strategia culturale e politica piuttosto la parità. Allora vi chiederò come prima domanda, come potremo stabilire una parità fra noi oggi? Perché immagino che in un luogo come questo l'alternativa consumo critica non sia degna di questo luogo. Dunque, come dialogare fra di noi nel mutuo rispetto in una situazione in cui non c'è parità e non può essere parità? E anche in quali situazioni e sotto quali condizioni può esistere la parità? È valida la parità per costruire una cultura multiculturale? Questa era la mia prima domanda. La seconda domanda sarà di partire in seguito del titolo del ciclo di conferenza in cui partecipo. Ancora una volta non sono qui per criticare, sono qui per dialogare. E penso che vi mi aspettate la preposizione per passare da una lingua all'altra è molto difficile. Mi aspettate per dialogare su certi punti. E dunque, partirò in seguito del titolo del ciclo di conferenze in cui partecipo. Pari e avevo pensato impari, ma si dice dispari e dispari, non impari. Sì. Non c'è una sfumatura. Impari è quando non si riesce a essere all'altezza. Dispari è la presa d'atto di una differenza. Impari è più una subordinazione. Implica sì. Una gerarchia, impari. Sì. Si è impari. Dispari anche qui. Sì. Non essere all'altezza. Impari è più non essere all'altezza. Dispari è essere diversi. Beh, per esempio, ho chiesto al portiere dell'albergo che è la sfumatura. E lui mi ha detto, ma impari non si usa, si usa no, dispari. Sì, si usa. Prima, impari. Sì, e ripeto le cose come sono. E prima di partire, in un primo tempo non avevo visto che è pari e dispari, che avevo visto pari impari. Dunque ho costruito un po' così. All'ultimo momento ho verificato, ho visto dispari e aspetto, sì. Ho guardato nel vocabolario sì. Del dizionario. E dispari è indicato come un termine di matematica e detto certo. È molto raro. Significa diseguale, differenti, sì. Uso molto raro. Allora, io sono un francese, non devo propormi dei termini italiani molto rari. Non è così raro. Non metto in questione il mio discorso. È raro per il vocabolario. E forse Antonio Gnoli dirà che uso un dizionario che non è attuale. E questo è vero un po'. Allora, dunque, la mia seconda domanda sarà sul ciclo, il titolo Dunque, avevo pensato in un primo tempo pari e impari, ma secondo me non cambia un granché, se no che usare pari, dispare, fa claudicare in un modo problematica. Ci torneremo. Immagino che tutte e tutti qui aspettate un dibattito su questo tema, ma anche qui non sarà facile, ma si può e si deve provare. E provare tenendo conto del titolo annunciato per il mio intervento, come condividere il mondo. Infatti, pari e impari, ma anche dispari, fa parte, sì, voi capirete, potete porre delle domande dopo, fa parte di un dibattito a proposito dell'evoluzione della condizione della donna che, si suppone, potrebbe risolversi nella nostra stessa cultura occidentale e partendo da una certa tappa di questa cultura. Ci sono delle donne che pretendono che lo sfruttamento della donna nella nostra cultura comincia con il capitalismo industriale. Questo non è assolutamente la mia posizione. E direi che se il capitalismo industriale ha potuto sfruttare le donne è perché la cultura era già la cultura che esiste, la nostra cultura occidentale. Dunque, cerco il mio modo di concepire l'evoluzione della condizione femminile e più in generale della condizione umana non può essere trattata in un tale ambito. Cercherò di spiegare il perché. Per primo, questo paio di opposti o quasi opposti, pari, impari, pari, dispari, si situa all'interno di una logica che esclude la differenza uomo-donna. Una differenza che ha nulla a che fare con un'opposizione. La differenza reale uomo-donna, l'opposizione non c'entra, sono due identità differenti, naturali. Non c'è opposizione, è la cultura che va a creare l'opposizione. Ma non esiste all'inizio l'opposizione. Infatti, la definizione di pari e di opposti è il fatto dei presocratici all'inizio della nostra cultura che usano questa strategia per differenziarsi dalla natura e dalla natura e dalla madre, anche della donna, ma prima di tutto della madre in quanto natura. E per differenziarsi e emergere dell'indifferenziazione con la madre natura vanno a creare un mondo parallelo all'universo naturale. Il mondo nella nostra logica è un mondo parallelo rispetto alla natura. È così. All'inizio i pari di opposte sono composti di fenomeni un po' più naturali e di esperienze ancora sensibili, ad esempio il giorno e la notte, o il caldo e il freddo, all'inizio. Ma la strategia dei pari di opposti fa che a poco questa strategia di pari di opposto diviene più, trasforma anche i fenomeni naturali in categorie astratte. E il giorno e la notte non sono opposti, e non hanno sempre la stessa lunghezza entro un po' l'un e così per il... Ma mettendo qui e qui, finalmente diventano delle categorie astratte e non dei fenomeni naturali, sensibili. E dunque, per di più, questi pari di opposti sono poco a poco estesi a cose più psichiche, fenomeno più morale, il buono e il cattivo, per esempio. Certi dei presocratici hanno incluso in tali pari l'uomo e la donna, il ragazzo e la ragazza. Conoscete probabilmente l'esempio molto celebre: a destra i ragazzi, a sinistra le ragazze. Dunque, usano categorie per differenziare i sessi, i generi. Si può verificare che all'inizio, come l'ho già detto, i pari di opposto sono costruiti su contrasti che a poco perdono il loro legame alla realtà, il loro carattere sensibile, quando sono concepiti come opposti. Situare oggi la donna in questi pari di opposti significa raddoppiare la chiusura logica in cui la donna è situata da una logica al maschile, che l'ha già tolta alla sua identità di donna. Questa non c'è già più donna, c'è soltanto una categoria. Quando si parla oggi di una donna, non si parla di una donna, si parla di una categoria della logica maschile per dominare la natura. E come natura, la donna madre o la donna amante. E non serve a nulla di dire quest'uomo è cattiva. Quest'uomo è preso in una logica maschile e non è cattiva per essere cattiva sul momento. No, è preso come le donne in una logica di cui non si può uscire così per una decisione morale. Questo non è impossibile. In questa logica la donna è presa come in una trappola di cui non può liberarsi senza interpretare la natura di questa trappola e il modo di uscirne. Certo, ho usato me stessa in un libro, Io tu noi, le parole uguale e differenti, ma già ho usato non ho preso pari, impari o dispari, non ho preso lo stesso termine, ho preso termini differenti, ho preso uguale che concerne un certo livello e differente che concerne un altro livello. E questo uguale, differente, non fanno parte di un paio di opposti, sono altre cose. La differenza è una cosa tutt'altra, una cosa decisiva nella nostra filosofia, decisiva anche per una condivisione del mondo, non soltanto per la liberazione della donna, ma per la condivisione del mondo. Cercherò a spiegare il perché. Anche se la differenza deve allora essere interpretata e usata in altro modo nell'opera di un Hegel, per esempio, in un altro. La differenza è sempre una parola chiave per la filosofia occidentale, ma si usa in modi diversi. E io ho introdotto come differenza filosofica chiave per il lavoro filosofico la differenza tra i sessi, che per la filosofia occidentale è una poca differenza empirica. Mi è sembrata assolutamente necessaria per andare oltre la filosofia del passato di prendere questa per aprire un'altra epoca della filosofia. Dunque, la filosofia, la differenza è sempre una chiave per costruire un sistema, un pensiero filosofico. Il problema è di sapere dove situiamo la differenza. E torno a un'altra difficoltà che presento, la problematica pari, impari o pari, dispari. Quando si dice pari, impari o pari, dispari, necessitiamo di un terzo termine a cui i due i due messi in opposizione si riferiscono. Dunque, vi chiederò a chi o a che cosa sono o devono essere pari, pari o impari, o dispari le donne. Che cosa significa dover essere pari o impari? Generalmente si presume che sia l'uomo. Ora, questa è la trappola peggiore in cui le donne possono cadere. Sia per l'uomo, sia per l'umanità, perdono e fanno perdere a tutte e a tutti la sola opportunità di situare il negativo, tornerò sul negativo, in un posto giusto. Un'altra parola chiave della filosofia, cioè in un posto che rispetta il reale. L'uomo e la donna esistono realmente, non sono categorie, esistono. E dunque, un negativo in un posto che rispetta il reale e serve alla cultura del reale. Del negativo abbiamo altrettanti bisogni quanto abbiamo bisogno della differenza per costruire una cultura umana. Le due cose vanno di pari passo. La questione, una volta di più, è di situarli in un posto appropriato per rispettare il reale e coltivarlo in modo umano. Cancellare la differenza reale, la sola differenza umana reale e universale che esiste fra l'uomo e la donna, equivale a distruggere una possibilità di costruire un mondo condiviso e di proseguire il divenire dell'umanità, così radicale, così semplice. Se cancelliamo questa differenza, non so dove andiamo. Forse, terzo punto, forse obietterete che non si tratta di essere pari a qualcuna, ma a qualcosa. Allora, chiederò a che cosa la donna potrebbe essere pari, che non sia già definita oggi all'interno della cultura e del mondo maschile. Dove sono già i valori ai quali una donna può pretendere di essere pari, se no a valori già definiti al maschile? Dunque, cercando a essere pari, diviene assolutamente impari a se stessa. La sola cosa a cui dobbiamo cercare di essere pari è a noi stessi. Nessun'altra cosa. Ma il problema è che il noi stesso al femminile non esiste ancora, esiste poco. Dobbiamo ancora costruire un'identità al femminile. Questo è un grossissimo problema, ma l'uomo ha messo secoli per cominciare a costruire un'identità al maschile. Per dirlo in altri termini, manchiamo tuttora di un'individuazione al femminile. Non sappiamo che cosa realmente è una donna. L'uomo ha cercato a individuarsi rispetto alla natura, rispetto alla madre. Noi non abbiamo ancora fatto questo cammino, cominciamo a farlo a poco. Dunque, accettare la parità ai valori definiti all'interno del mondo maschile significa accettare di rinunciare a se stessa, a valore al femminile. Il più delle volte, lo sapete, per ottenere un posto in un mondo al maschile. Allora, direi che le donne rinunciano a loro, ma anche all'opportunità che la cosiddetta liberazione delle donne, o in altri termini, la partecipazione delle donne all'ordine pubblico potrebbe portare al mondo, potrebbe portare all'umanità. Non dobbiamo semplicemente cercare a liberarci, dobbiamo, se le donne si liberano, liberano l'umanità. Dunque, nella nostra liberazione dobbiamo pensare che stiamo liberando l'umanità attraverso di noi. Non è un piccolo compito egoisti, narcisisti o economici, è una tutt'altra opera. Dunque, ma per fare l'ordine pubblico in cui siamo ancora è costruito a partire di un fra uomini che presuppone che le donne siano a casa per assicurare la vita privata. Se vogliamo far evolvere la società, bisogna proporre nuovi valori. Non si può dire, io ero a casa, vado nell'ordine pubblico, senza cambiare tutta la cultura che era definita in un altro modo. Non si può cambiare così le cose perché si grida per strada. No, non basta. Si può fare un passo. Ma dopo si deve costruire un'altra cultura. Dunque, per passare dalla vita privata alla vita pubblica, dobbiamo proporre nuovi valori. Allora, chiederò, quali sono nuovi valori che le donne della parità hanno proposto nella nostra cultura? Il più delle volte e hanno accettato la cultura come è, hanno chiesto soltanto di poter insediarsi nella cultura come è. E il perché le donne della parità o dell'uguaglianza hanno potuto insediarsi nella nostra cultura come è, e le donne della differenza sono state accettate il più delle volte, perché loro chiedono un cambiamento della cultura. Non chiedono soltanto di insediarsi in una cultura come è, dicono noi chiediamo un cambiamento della cultura che riconosce i nostri valori. Se non lo fanno, dovrebbero farlo. Se no, non hanno nessuna logica. Dobbiamo costruire una nuova logica. Non si può trasportare nel mondo pubblico tutte le cose che era permesse nella vita privata, era usuale. E no, si deve costruire una nuova logica, una nuova cultura. Mi pare anche che se le donne dell'uguaglianza, della parità, o questa logica dell'uguaglianza e della parità, se le donne, se le problematiche dell'uguaglianza e della differenza hanno potuto militare insieme, fare delle cose insieme contro l'ingiustizia del mondo, e ne abbiamo fatto insieme, spesso si sono fermate a rivendicazioni quantitative. Ora, le rivendicazioni quantitative, per esempio l'argomento che se le donne non hanno ancora cambiato il mondo è perché non sono abbastanza nei posti pubblici, a questo non ci credo. Non basta le rivendicazioni quantitative. Si tratta di succedere a imporre in un posto altri valori. E non so in Italia, ma immagino ancora in Francia, se qualcuno pretende che siano di valore al femminile, la settimana dopo nei giornali sono ironia sul fatto che si può chiedere o dire che sono valore al femminile. Per loro non esistono. Allora, dunque, argomento quantitativo, io non ci credo. Il problema è, ancora una volta, che le donne hanno bisogno di costruirci un'identità femminile. chiedere che questa identità sia riconosciuta nella differenza, nella sua differenza rispetto all'identità maschile. Dunque, se vogliamo difendere la problematica pari impari, non si deve fare come si dice: andiamo la problematica pari impari e dopo imponiamo la differenza. No, si deve fare il contrario: imponiamo la differenza e dopo possiamo chiedere pari impari. Ma la prima cosa non funziona, è una trappola. Se volete, dunque, ma non va bene nemmeno di fermarsi alla critica, alla rivendicazione, alle richieste quantitative. Si tratta di rifondare la nostra cultura e la nostra società a partire da due soggetti diversi e non da un soggetto cosiddetto universale e neutro, che infatti obbedisce alle necessità del solo soggetto maschile. E questa rifondazione della cultura è necessaria per le donne, affinché che possano costituirsi un'identità e una soggettività al femminile e affermare il loro valore, al posto di limitarsi alla critica dei valori degli altri. Perché se si fermano alla critica, le donne rimangono nell'atteggiamento che Nietzsche chiama la reattività. Se fermano alla critica, sono semplicemente reattive a una situazione. Ora, le donne hanno bisogno per costruirsi e devono, per la cultura e la società, diventare creative e non soltanto reattive. È un'altra cosa. E questa creatività è necessaria per loro, per un'autonomia reale, è necessaria anche per la cultura e la condivisione del mondo. Dopo la caduta degli idoli, come si dice, immagino che voi sapete un po' che significa la caduta degli idoli. Un po'. Devo spiegare? No. Sto scherzando. Quando sono caduti, mi pare che oggi sono spesso diventate più artificiose, più grottesche che nel passato, ma che non sono cadute, se no saremo in un'altra situazione. Dopo la caduta delle idole non possiamo fermarci a criticare il tutto, perché questo significa rimanere dipendente alle idealità, ma in modo distruttivo, al posto di essere in modo credente. E dobbiamo una volta di più ripensare il nostro modo di costruire il mondo e prima di tutto di costruire noi stessi e le nostre relazioni con il mondo, con gli altri. Quando credevamo ancora a ideali assoluti da raggiungere e condividere da tutte e tutti, allora potevamo rivolgersi l'uno all'altro, l'una all'altro, nell'ambito di questi ideali che faceva da terza fra di noi. E in un certo modo la problematica pari impari resta all'interno di questa problematica, perché a chi si tratta di essere pari impari? Un giorno ho risposto alle teologhe americane che chiedono la parità ai preti. Ho chiesto: non si tratta di essere pari ai preti, si tratta di essere pari a Dio, è un'altra cosa. Significa, è un'altra cosa, lo dico per far percepire un po' la differenza di problematica. Dunque, quando esistono ancora ideali, possiamo condividere all'interno dei ideali e in un modo quantitativo siamo più vicino all'ideale o più lontano, e Questo lo sapete bene, la differenza uomo-donna è stata valutata un po' così. Gli uomini sono stati presupposti essere più capaci di ideali, più vicino all'ideale, e le donne sono rimaste nel basso, perché sono soltanto la natura, sono incapaci di idealità. Ma se gli idoli sono realmente caduti, allora siamo tornati nel primo giardino, siamo nudi. E come dobbiamo ricostruire la cultura a partire di questo stato? Nudi nel primo giardino, avendo non senza assoluto in cui riferirsi. All'inizio Adam e Eva avevano Dio a cui... Allora, togliamo Dio come idole assoluto, un certo Dio. Una certa... Allora siamo a due. Nel primo giardino abbiamo soltanto i due piedi, abbiamo la natura intorno a noi e abbiamo la nostra sessuazione. La sessuazione non è una piccola cosa, è la marca del vivente. Il mondo è vivo e sessuato. Soltanto il mondo che non è un mondo vivente non è sessuato. La macchina non è sessuata. Noi, finché rimaniamo dei viventi, siamo sessuati. È una fortuna, perché il fatto che siamo sessuati ci consente di mettere il negativo fra di noi senza prendere nulla a nessuno. Infatti il negativo è già nella natura. L'uomo non è la donna non è l'uomo, il negativo già sta fra di loro. E in questo caso il negativo non serve a integrare il tutto in un modo unico, il negativo serve a mantenere la dualità dei due mondi. Quando uso negativo, non è, ovviamente questo non significa che non è buono, il negativo hegeliano, che usa in modo diverso. Hegel usa il negativo per integrare tutto il mondo sotto un unico assoluto. Io uso il negativo per disintegrare da un solo assoluto. E per come un limite che ci obbliga a rispettare l'altro in quanto altro, dunque a rispettare la dualità dei mondi. Il primo rispetto deve essere fra l'uomo e la donna, perché, come l'ho detto, il negativo è già nella natura. Ma se lo rispettiamo qui, è facile di rispettarlo in altro posto. E tutte le altre differenze sono delle differenze costruite. Se succediamo a tornare alla differenza reale, condividere con le altre differenze non è un... Sì, rimarrà ovviamente i soldi, il problema dei soldi, senza dubbio. Ma io... Una volta di più, non credo che si deve trattare il problema dei soldi e dopo altri problemi. Penso che dobbiamo trattare prima gli altri problemi e che i problemi di soldi si risolveranno dopo. Questa è la mia posizione. Allora. Una cosa, vorrei ancora sottolineare alcune piccole cose senza forse seguire tutto il mio discorso. Una cosa che forse non ha abbastanza sottolineato, che generalmente proviamo a incontrare l'altro soltanto fra due persone. Ho capito da qualche anno fa che così non lo facciamo. dobbiamo considerare l'altro come abitante un altro mondo che il nostro. Dunque, pensare sempre quando avviciniamo a un altro, un'altra, non pensare avvicino una persona, dobbiamo pensare avvicino un altro mondo. E questo aiuta molto a costruire delle relazioni. Devo rispettare sia il suo mondo sia il mio, e la cosa che possiamo fare è di costruire un terzo mondo condiviso, ma sotto condizione di poter tornare a ciascuno al proprio mondo. È una cosa che sviluppo molto in questo libro. Vorrei anche sottolineare qualche cosa, non so, penso che ho ragione di tagliare un po', no? Che dite? No? Beh, non ci abbiamo tempo. Ah sì? Abbiamo, sì. Allora. Vorrei che fosse chiaro tutto i vari passaggi devono essere chiari. Dunque, considerando che, ho già spiegato un po', talvolta per far capire dico che generalmente anche i maestri dell'etica, i maestri dell'etica nella nostra cultura considerano l'altro all'interno del loro orizzonte. Allora, faccio un disegno alla lavagna, e spiego ad esempio la differenza fra un filosofo come Levinas e la mia posizione. Per Levinas c'è soltanto un orizzonte, l'altro è nel suo orizzonte. Per me, se io sono in un orizzonte, in un mondo, e l'altro è in un altro mondo. È una assolutamente problematica e differente. E ad esempio per Levinas, come la maggior parte dei maestri dell'etica occidentale, l'altro è una categoria nel loro discorso. E per Levinas, per esempio, l'altro è il povero, è l'orfano, è più basso di lui, e per rispettare l'altro con la minuscola, lui ha bisogno dell'altro con la maiuscola. Perché non usa il negativo come l'uso io? Che il negativo è la cosa che garantisce il limite fra il mondo dell'altro e il mio mondo. E questo non è soltanto privativo, perché il fatto che che preserva il mio mondo rispetto al mondo, rispettando il mondo dell'altro, preserva anche il mio mondo. E questo permette di non integrare l'altro e non di essere integrato dall'altro. Perché trattare la differenza con l'altro è una cosa molto difficile, infatti. Dunque abbiamo bisogno di strategie molto, molto affinate per poter trattarla. Per Levinas, per avere un atteggiamento etico verso l'altro, che ancora una volta definisce sempre come più basso, ha bisogno dell'altro con la maiuscola. Ora, se entriamo, questo è possibile per un soggetto unico in una cultura unico. Quando cerco a condividere con un'altra cultura, come ormai il nostro compito, non posso rimanere nell'orizzonte del mio assoluto, perché il mio assoluto non è necessariamente l'assoluto dell'altro, La maggior parte dei conflitti oggi sono conflitti fra assoluti, infatti. Dunque, devo essere capace di trattare con l'altro senza rimanere nell'orizzonte del mio proprio assoluto. Questa è la caduta degli idoli. Ma la caduta di idoli richiede di inventare un altro modo di rapportarsi all'altro. Perché che significano idoli? In modo generale, idoli possono essere una certa concezione di Dio, possono essere l'ideale platonico, ad esempio per Levinas talvolta è Dio, talvolta è l'ideale platonico, e non è sempre semplice da distinguere. Idoli sono stati necessari per unificare per la nostra identità. Ma se rispetto l'altro nella sua differenza è un'altra strategia per unificare la mia identità. E un'altra strategia, un'altra cosa per nella l'etica e la trascendenza usate nel passato in Occidente e ancora molto oggi, la trascendenza è sempre verticale. Io ho messo la trascendenza prima di tutto a livello orizzontale. L'altro, in quanto differente, mi è trascendente. Se si deve costruire a poco una trascendenza verticale, si farà a partire del rispetto dell'alterità dell'altro. È un'altra cultura. E dunque il rispetto della differenza dell'altro, che sia l'altro genere, che sia l'altra generazione, che sia l'altra cultura, è il rispetto di una trascendenza. Ora, abbiamo bisogno di trascendenza. L'umano in quanto tale è un animale che ha bisogno di trascendenza. La trascendenza può situarsi nel rispetto dell'altro in quanto differente. E non necessariamente nel rispetto di un assoluto condiviso da un popolo. Questo è anche vero per il popolo animale. Hanno un assoluto che fa di capo a, come si dice, il truppo. E forse non hanno, e penso che non hanno il rispetto della trascendenza dell'altro. Dunque, dopo la caduta dell'idolo, abbiamo di ricostruire per l'umanità un rapporto al trascendente. Penso che dobbiamo ricostruirlo aprendo di nuovo un futuro per l'umanità. La prima trascendenza per l'umanità è la possibilità di intravedere e di costruire un futuro. E l'altro, in quanto altro, fa anche parte della costruzione di una trascendenza per noi. E per di più di quest'altro, in quanto altro, abbiamo bisogno, e non abbiamo bisogno, il rapporto con l'altro non può limitarsi al fatto di essere bravi patriarchi o brave matriarche, che sono generose eticamente. No, abbiamo bisogno dell'altro perché siamo esseri relazionali e che l'altro fa parte di noi, e abbiamo anche il desiderio, e il desiderio non è soltanto guardare all'altro con generosità, è una tutt'altra cosa. Dunque, mi pare, ho tagliato, ma forse ci tornerò nelle domande. Io credo che il nostro compito oggi è di chiederci che cosa che cosa sia essere un umano. Che cos'è un umano? forse siamo oggi di fronte a una domanda che abbiamo un po' dimenticata. E la seconda che va insieme alla prima è come possiamo governare il mondo in quanto umano. Il mondo, governare il mondo in quanto umano e per far progredire l'umanità. Questo è il nostro compito oggi. E non sono sicura che le categorie pari, impari o dispari siano realmente le categorie che possono essere d'uso per questo compito. Grazie.